Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Broken relations to absolute nations above. When you think that Seconda parte di Eclettica, quella che state ascoltando sulle frequenze di Rock FM, la voce di Giulio Cappardoni, quella che state ascoltando su Rock FM. Questo succede tutti i giorni della settimana, fra le 19 e le 20. Seconda parte che si è aperta con il gruppo svedese di nome Club Hate e il brano Heaven, ed è proseguita poi con Friars, che ha appena chiuso Happy. Friars, che è un giovane 18enne londinese che ha la particolarità, come ho già detto nelle corte settimane scorse, di aver frequentato lo stesso liceo frequentato da Occasion Dance Party, e Friars che pubblica il suo esordio in questo 2008. Ora invece è la volta di un artista che proviene dagli Stati Uniti. Forse avrete notato nelle scorse settimane un singolo passaggio all'interno delle playlist di Eclettica di una sghemba versione di I'll Be Your Mirror da parte di un artista il cui nome riportato appunto in playlist era Atlas Sound. È uno pseudonimo dietro cui si nasconde quello che è il frontman della band Deer Hunter, il suo vero nome è Bradford Cox, e sta pubblicando musica con questo pseudonimo, musica che produce nella sua camera da letto, nient'altro che con un laptop come strumento. Requiem for All the Lonely Teenager with Passed Out Moms è il brano che io ho scelto per voi. Yeah. Erano lì, nell'angolo. Olga me l'aveva detto. Ci sono tutti e tre, fa attenzione. Sono senza giacca, ma fa attenzione. Era importante che non avessero la giacca. Nelle tasche dei calzoni si porta raramente il coltello. Mai, quando lo credi necessario. Già due volte erano venute a cercarmi da quella sera. Olga era riuscita a tenermeli lontani, aveva pianto e pregato. La padrona dell'albergo non si era accorta di nulla. Sdraiato sul letto li avevo sentiti scendere le scale, bestemmiando sottovoce. Ogni tanto si facevano vedere sotto la finestra. La finestra aveva un muro e un fumaiolo di fronte. Quando pioveva forte, la grondaia dell'altra casa mi ributtava l'acqua sui vetri. Questo era l'incipit di «Sei stato felice, Giovanni», di Giovanni Arpino. Sometimes

È proprio bella questa canzone degli R.E.M. È bella a prescindere, ma è molto bella nella versione dei Bodies of Water che ci siamo appena ascoltati. Bodies of Water che io probabilmente indicherei come il miglior nome nuovo del 2007, se qualcuno mi dovesse fare la domanda. Bodies of Water, quartetto californiano di indie gospel. È così che loro definiscono la musica che fanno. Various Production invece è il pezzo che chiude la trasmissione di quest'oggi. Various Production che hanno lasciato la XL Recordings e si sono dati all'autoproduzione per la etichetta quasi omonima Various. Un brano questo che uscirà anche come pubblicazione ufficiale a nome di Jerry Mitchell, che infatti li aiuta in questo brano su Fire Records ad inizio 2008. Il pezzo si intitola Risen. After the winds, late afternoon, under a glacial sky, after the fevered vengeances of voices, although you think, were they there? A hopeless horror blasts my heat, choked by silence, this invisible blood, things shift so quickly like lice through the hair. In the damp garden of the north, shrunk and eaten up, like these lice in my hair, scuffling around every exit barred, obstructed, blocked, debris fills the flickering of a spinning compass needle, lighter than air. Oblivion is no defense. In the mask, a crack. Try to touch your name, the key's long lost. You can't get back. Good for nothing. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 11, volume numero 4. Indice, Queen Walker, The Main Drag, a rifare gli LCD Sound System, Mechanical Bride, a rifare Umbrella, The Mojomatics, Seu Jorge, Club 8, Friars, Atlas Sound, Red Worms Farm, Bodies of Water, a rifare gli R.E.M., Various Production assieme a Jerry Mitchell. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.